Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Allora, per farvi l'introduzione della puntata di oggi dobbiamo fare un piccolo passo indietro, un passo indietro di 2 anni. 1 milione di lavoratori italiani circa nel corso dei primi 6 mesi del 2007 hanno aderito ai fondi pensione. Vi ricordate quando parlavamo, lo abbiamo praticamente fatto una volta a settimana per ben 6 mesi, del semestre del silenzio assenso nel corso del quale i lavoratori del settore privato nel nostro paese hanno avuto l'opportunità di scegliere come destinare il trattamento di fine rapporto, se mantenerlo in azienda o se destinarlo alla previdenza complementare, quindi non solo ai fondi pensione chiusi, cioè quelli di categoria, ma anche a quelli aperti oppure alle forme di previdenza individuale. Ora che succede? Succede che è tempo di fare qualche primo bilancio utile, perché stanno scadendo i 2 anni di permanenza vincolata agli strumenti scelti nel 2007 e quindi magari qualche lavoratore si sta cominciando a porre il problema di scegliere se trasferire la propria posizione altrove. Ne ha parlato un paio di settimane fa anche Plus 24 del Sole 24 Ore, proponendo peraltro ai lettori un test di verifica sul grado di soddisfazione della propria posizione previdenziale. Oggi magari lo facciamo anche noi di Salva Danaio, qualche ascoltatore, con l'aiuto di chi lo ha inventato questo test, Marco Lo Conte. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Magari ci aiuterà a fare questo check-up agli ascoltatori, però insomma il tema che vogliamo affrontare è proprio un po' un bilancio della previdenza complementare, visto che quello che stiamo passando è un po' l'anno nero per tutte le tipologie di investimento e anche per i fondi pensione, come questa mattina titola anche un lungo articolo di Stefania Tamburello sul Corriere della Sera. E insieme a Marco Lo Conte questa mattina con noi anche Enrico Clemente, responsabile area previdenza complementare del gruppo Assicurazioni Generali Italia. Clemente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E grazie di essere ritornato a Salva Danaio, non la sentivamo da un po'. Naturalmente, microfoni come sempre aperti ai nostri ascoltatori, potete chiamarci all'800 24 00 24 o potete scriverci al 349 238 6666. La borsa stamattina è piuttosto positiva, ieri c'è stata una giornata molto brillante per i listini europei, poi i guadagni si sono affievoliti sul finale, complice la debolezza di Wall Street, e Wall Street ieri sera ha chiuso leggermente negativa. Sono arrivate le indicazioni del Beige Book della Federal Reserve, del bollettino praticamente della Banca Centrale Americana, che ha indicato che la crescita continua a rimanere ancora piuttosto debole, l'economia resta debole, nessuna crescita per la verità negli Stati Uniti, l'economia resta debole, ma il declino, ha detto la Federal Reserve, sta rallentando. Però ci sono dei fattori che comunque preoccupano un pochino gli investitori. C'è questo petrolio che è ritornato a $72 al barile, il dollaro che continua a scendere, questo in realtà, come dire, è un fenomeno speculare. Il dollaro è a 1,4021 stamattina sull'euro, ma intanto, vi dicevo, la borsa sta trascurando tutto questo, quella europea, e oggi ha ripreso a crescere dopo una partenza un po' più a rallentatore. A Milano acquisti su Mediolanum, più 4,22 su Parmalat, più 2 su Unipol, più 1,66 su CIR, più 1,61 su Pirelli, più 1,49 Enel recupera, sta concludendosi l'aumento di capitale, più 1,39 Fiat, più 1,35. Definita la partita su Chrysler, si può fare, ha detto la Corte Suprema americana. Il titolo da 2 giorni ha recuperato terreno a Piazza Affari. Generali, più 1,33 Tenaris, più 1,27 Unicredit, più 1,26%. Segno meno invece su Terna e Bulgari, che stanno perdendo 1,5 punti. Sulla Popolare di Milano, meno 1,24. Su Campari, meno 1,14, Mediobanca, Prismian, Buzzi Unici, ma appunto in ribasso di 1 punto, Ansaldo, meno 0,7%. Direi che questi sono i principali temi della seduta di Milano. Andiamo subito al tema di questa mattina. Oggi ritorniamo sulle questioni aperte della previdenza complementare. Non solo per i mutui. La portabilità arriva anche nel ramo della previdenza. Si avvicina infatti la scadenza di fine mese del vincolo di permanenza presso la forma previdenziale prescelta per circa 1 milione di lavoratori italiani che hanno aderito ai fondi pensione nel corso del primo semestre del 2007. E di conseguenza ci si interroga sull'opportunità o meno di cambiare fondo pensione. Se sia meglio mantenere il proprio fondo pensione negoziale o convertirsi ai fondi aperti e ai PIP, piani individuali pensionistici, non è certo una scelta semplice. In realtà, un piccolo varco nella rigida regolamentazione era stato già aperto dalla Covip, che lo scorso febbraio ha stabilito che un lavoratore può sospendere la contribuzione ad un fondo di categoria e iniziare a versare i suoi contributi a un fondo pensione aperto ad adesione collettiva, in attesa di trasferire anche lo stock pregresso, una volta maturati i 2 anni nel categoriale. Così, in attesa della prossima settimana, quando la stessa Covip presenterà la relazione annuale sull'andamento del sistema previdenziale, gli italiani si interrogano sulla scelta più opportuna da intraprendere. Se con l'introduzione della riforma i più avevano optato per i fondi negoziali, 600.000 nuovi iscritti nell'anno, mentre solo in 200.000 per quelli aperti e 100.000 per i PIP, ora la situazione potrebbe cambiare. I fondi aperti e i PIP hanno infatti aumentato le proprie quote di iscritti durante il 2008, sottraendo adesioni ai fondi negoziali. C'è dunque da scommettere che nel giro di poco tempo si scatenerà una vera e propria caccia da parte di intermediari e promotori, pronti a non farsi sfuggire l'occasione per convincere i lavoratori a spostarsi verso prodotti previdenziali del proprio gruppo. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666, il numero invece per i vostri messaggi. Prima di intraprendere la nostra conversazione sulle questioni aperte nell'ambito della previdenza complementare, volevo darvi un'informazione di servizio, ve lo ricorderò anche nei prossimi giorni. Lunedì con il Sole 24 Ore esce un articolato ampio dossier università per scegliere il corso di laurea giusto, con i consigli pratici sul lavoro, borse di studio, alloggi, doppi titoli, in più c'è anche l'accesso al motore di ricerca pubblicato sul sito del Sole 24 Ore con tutti i corsi di laurea. Io comincio già a ricordarvelo: se avete domande aperte sugli aspetti economici legati alla scelta del corso di laurea, potete già cominciare a scriverci, in modo tale che lunedì sottoporremo le vostre questioni ai nostri ospiti. Marco Lo Conte, allora cominciamo un po'. Tema dei bilanci qua presta il fianco a numerose parentesi che potremmo fare, insomma potremmo affrontare la questione da numerosi punti di vista. Prenderei a pretesto questo appuntamento istituzionale che abbiamo la prossima settimana, la relazione annuale del presidente della Covip. Tra l'altro è la prima relazione del nuovo presidente di Finocchiaro, che in realtà siede alla Covip da circa 6 mesi ormai. Sì, lui è arrivato a gennaio, per cui lui terrà per la prima volta la relazione al presidente di Covip su un'attività della commissione di vigilanza che per tutto il 2008 non è stata guidata da lui, un po' paradossalmente, però insomma Finocchiaro ha una lunghissima esperienza nella Banca d'Italia. Banca d'Italia, sì, oltre 40 anni credo. 47 anni e qualche mese, ha battuto anche Carlo Azeglio Ciampi in durata di permanenza in via nazionale. Beh, insomma, ha preso questo incarico con grandissima partecipazione, grandissima passione, e a quanto mi è dato di sapere sta ultimando una relazione che sarà molto ricca di spunti. Qualche anticipazione abbiamo avuto modo di conoscerla qualche settimana fa in occasione di un'audizione in Parlamento sullo stato di salute della previdenza, dove ha già individuato dei punti di criticità che non riguardano, lo diciamo subito, più di tanto i rendimenti, perché con quello che è accaduto l'anno scorso era abbastanza inevitabile che ci fossero dei cali nei rendimenti, ma il punto non è tanto questo, che siano scesi i rendimenti deve essere da considerare in maniera relativa agli anni anagrafici e agli anni lavorativi di chi ha aderito a quella linea azionaria o obbligazionaria. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare più volte, è più preoccupante che un sessantenne abbia aderito ad un fondo pensione che ha perso il 5% l'anno scorso che per un trentenne che ha perso il 25%, perché il trentenne ha ancora molti anni per recuperare, anzi quello che ha, tra virgolette, comprato a poco l'anno scorso nel 2008 potrà nell'arco di 20-30 anni rivalutarsi in maniera consistente, mentre un sessantenne che sta per andare in pensione ha meno tempo per vedere recuperare e rivalutare i suoi rendimenti. Quindi c'è un problema di adeguatezza della linea o del comparto in base alle esigenze individuali, e questo è un problema, una questione su cui ora si discute. Il life cycle è un modo di adeguare l'adesione ai comparti all'età anagrafica, è molto interessante, tecnicamente un po' complicato, ma ci torneremo nel corso di Salvadanaio, perché su questo punto c'è stato anche uno specifico passaggio delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Draghi. Mario Draghi, che poi sentiremo. Quindi queste alcune delle questioni aperte. Questo è un problema di adeguatezza, poi c'è un problema di efficienza del fondo cui si è aderito. Per questo abbiamo individuato questo doppio test che ci consente, dati alla mano, di verificare se il fondo cui abbiamo aderito risponde al, diciamo così, a dei criteri di efficienza minimi per continuare ad aderire oppure passare ad un altro fondo. Volevo anche che mi aiutassi, Marco, a capire, come dire, il motivo per cui abbiamo chiamato Enrico Clementi del gruppo Generali. Tu dirai, ma perché? Lo saprete solo voi. No, in realtà il tema è anche che cosa è successo in questi 2 anni, qual è la scadenza con la quale adesso teoricamente molti lavoratori avranno l'opportunità, dovranno confrontarsi. Si stanno chiudendo questi 2 anni di permanenza vincolata agli strumenti che i lavoratori hanno scelto nel 2007. Esatto. Cosa vuol dire? Nel 2007 la gran parte delle adesioni è avvenuta sui fondi di categoria, ossia i fondi negoziali. Diciamo che i fondi aperti e i PIP erano stati meno pronti a rispondere alle novità normative che in corso d'opera sono state messe a punto anche nel corso durante di quel semestre di silenzio assenso. Diciamo che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, le forme individuali hanno recuperato anche commercialmente molto terreno e ora hanno lanciato la sfida ai fondi negoziali alla caccia delle adesioni. Ora, scaduti 2 anni, è evidente che la contesa vede all'attacco agenti assicurativi e promotori finanziari nei confronti della platea di iscritti di fondi negoziali per trasferire le loro posizioni verso fondi aperti o PIP. Questa è un po' la contesa. Devo dire che anche i fondi negoziali stanno recuperando il terreno perduto in termini non commerciali, perché non sono delle società commerciali, sono degli enti no profit. E infatti questo poi lo si nota anche nell'aspetto consulenziale, esatto, sul quale poi magari avremo modo di soffermarci. Ma stanno recuperando un po' di terreno offrendo un po' più di consulenza, un po' più di informazione e, diciamo, fronteggiando l'attacco con qualche manovra di contropiede interessante. Allora poi ce le racconti queste manovre. Enrico Clementi, eccoci a noi di nuovo, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa è successo nel 2008 per voi, poi a prescindere anche dall'aspetto rendimenti, che comunque non è che non possiamo tenere in considerazione, peraltro c'è anche tutto uno specchietto che questa mattina, lo ribadisco, la collega Stefania Tamburello sul Sole 24 Ore ha predisposto proprio per mettere a confronto i rendimenti che sono stati ottenuti da fondi negoziali, fondi aperti e piani individuali di previdenza nel 2008. E tra l'altro più PIP vedo che forse sono stati quelli più penalizzati in termini di rendimento, poi ci andremo, Clemente, ma in ogni caso nel 2008 complessivamente, per quello che vi riguarda, il tasso di adesioni ai vostri strumenti di previdenza complementare, come è andato, come si è aperto questo 2009, se siete pronti appunto a sferrare teoricamente questo attacco per magari così andare a conquistare quei delusi dei fondi chiusi o dei fondi aperti. 2008 è l'anno che ha seguito l'avvio della riforma della previdenza, quindi è l'anno in cui si sono consolidati determinati comportamenti, in cui si sono un po' tirate le fila di queste novità che hanno riguardato in particolare i lavoratori dipendenti e il TFR. Ed è stato l'anno anche in cui è iniziata la crisi dei mercati finanziari, per cui si sono sommati questi due eventi. Le due cose insieme cosa hanno determinato? Hanno determinato nelle persone che nel corso del 2007 non avevano ancora deciso e avevano rimandato la decisione di aderire alla previdenza complementare, ha portato queste persone a fare dei ragionamenti probabilmente in termini di un po' più di cautela nelle scelte degli strumenti verso cui indirizzare i propri risparmi previdenziali e il proprio TFR. Pertanto gli strumenti che le reti organizzate, le compagnie di assicurazione hanno proposto, che sono per loro natura più prudenti e con caratteristiche di garanzia, hanno incontrato certamente un ottimo riscontro nei confronti di questi dipendenti e di queste persone. Quindi l'emotività legata anche all'andamento dei mercati ha orientato probabilmente le scelte dei lavoratori verso strumenti per loro natura più prudenti. Quindi il 2008 si è caratterizzato con una richiesta di strumenti garantisti e il 2009 naturalmente non fa eccezione, differenza, non ha manifestato dei grossi scostamenti, nel senso che continua a essere molto molto apprezzato il prodotto PIP per le caratteristiche di garanzia, di solidità, di prudenza che questo strumento offre, ma anche quei comparti dei fondi pensione aperti che le compagnie di assicurazioni, le banche possono offrire per la presenza di comparti con garanzia di rendimento. Quindi si sono sommati sostanzialmente due fenomeni: la possibilità di ricevere una consulenza nella scelta di quale comparto, di quale prodotto utilizzare per i propri risparmi, mm-hmm. e la presenza di una connotazione di prudenza nelle gestioni che caratterizzano questi strumenti. Ecco, c'è da dire che naturalmente le forme individuali di previdenza saranno state prescelte in queste prime due anni appunto da tutti coloro che evidentemente intanto non hanno un fondo di categoria al quale potersi rivolgere, e c'è tutto l'ambito della libera professione che naturalmente deve essere soddisfatta da questo ambito appunto di possibilità, di opportunità della previdenza complementare. Terza cosa che devo precisare è che Stefania Tamburello scrive per il Corriere della Sera e non per il Sole 24 Ore, l'avevo detto all'inizio, poi mi sono sbagliata. Io allora, insomma, ecco, abbiamo. Sì. Se mi consente, c'è una terza risposta ai quesiti che faceva, cioè sostanzialmente l'attacco che viene sferrato al mercato di coloro i quali hanno ora la possibilità di portare la propria posizione ad altri strumenti. Da questo punto di vista, l'apertura della finestra di portabilità naturalmente è un momento importante in cui chi ha già aderito è un'opportunità molto importante, deve verificare se la scelta che ha fatto è una scelta coerente, esatto, e adesso se risponde ai propri requisiti. Questa scadenza diciamo che può rappresentare un momento utile per poter fare un bilancio, ma non è che adesso tutti ci dobbiamo mettere in testa che stiamo lì e se qualcosa proprio non è stato, come dire, un risultato. Potrebbe essere deleterio, per un giovane potrebbe essere deleterio aderire ad una linea tra virgolette prudente, cioè che investe in un mercato monetario o anche in una gestione separata, perché per chi ha meno di 40 anni una dose relativamente importante, anzi decisamente importante per meglio dire, di mercato azionario è direi indispensabile in Clemente, questa fase. Sì. Anche perché la precisazione era in questi termini, naturalmente è vero che i tassi di adesione, cioè coloro che hanno già scelto di fare previdenza complementare con i fondi chiusi, con i fondi aperti, con i PIP, raggiunge il 30% dei lavoratori, resta una componente molto importante di persone che ancora non hanno deciso, e sono soprattutto loro quelli che hanno necessità di scegliere. Esattamente. Chi ha già fatto il primo passo ha già fatto un passo importante, perché si è reso conto della necessità di pensare alla propria pensione integrativa. C'è una componente molto ampia di lavoratori autonomi o dipendenti che questa scelta ancora non hanno fatto e stanno rimandando, e poi, tra l'altro, oggettivamente sono loro i primi ai quali rivolgersi, perché considerino in modo molto preciso la situazione. Poi, tra l'altro, io ho recuperato una testimonianza di un'ascoltatrice che ci aveva chiamato in tutt'altra trasmissione qualche giorno fa, e in realtà lì era uscito fuori proprio il discorso dell'adesione alla previdenza complementare. Lei ci aveva spiegato molto bene le motivazioni per cui non aveva ritenuto opportuno fino a questo momento fare una scelta al di là, diciamo, della condizione economica che le impediva di guardare anche a questo aspetto della sua vita in maniera serena. C'è anche tutto un altro aspetto legato proprio alla informazione che da questi strumenti arriva, che non la soddisfaceva affatto. Poi vi faccio ascoltare questa testimonianza. Ho tre ascoltatori pronti, non riesco ancora a sentirli, li sentiremo immediatamente alla ripartenza di Salvadanaio tra qualche minuto. Però Marco, un dato sugli indecisi ce l'abbiamo? Quanti lavoratori ancora potenzialmente potrebbero fare una scelta di previdenza complementare invece ancora stanno mantenendo il TFR in azienda? Esiste una statistica di questo tipo? Sì, allora, per quanto riguarda le piccole imprese sono circa l'85% le persone, i lavoratori che lavorano nelle piccole imprese e non aderiscono alla previdenza. Per quanto riguarda il mondo delle imprese con più di 50 dipendenti siamo intorno al 58%, ossia una parte comunque maggioritaria ma molto inferiore, il che significa che in altre condizioni, cambiate le condizioni, insomma, c'è una possibilità di aprirsi alla previdenza differente, e che diventerà sempre più decisiva col passare del tempo, perché una cosa che i politici non dicono mai, perché non tornerebbe a loro vantaggio sia in campagna elettorale che fuori dalla campagna elettorale, sempre spinti alla ricerca del consenso, è che in futuro lo Stato darà pensioni bassissime. Già l'anno scorso i fondi pensione qualcosa hanno perso, ma perso certo. molto di più chi tutti coloro i quali hanno una pensione di qualunque tipo, perché lo Stato dà meno di quello esatto, che questo per fortuna perché l'età si allunga, perché diventiamo siamo più longevi, però insomma è una longevità che pagheremo cara e in futuro. E anche per altre ragioni che noi ragazzi, Marco, dopo. Noi ragazzini. Sì. Eccoci di nuovo a Salvadanaio, il punto sulla previdenza complementare. Lo facciamo oggi perché siamo ad una settimana dal rapporto annuale della Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, perché è anche tempo di così rimettere un po' di testa sulla scelta che abbiamo fatto 2 anni fa, quando abbiamo avuto il famoso semestre di tempo di silenzio assenso, nel corso del quale abbiamo avuto l'opportunità di scegliere se dirottare il nostro trattamento di fine rapporto in un fondo di previdenza complementare, in uno strumento di previdenza integrativa, o mantenerlo in azienda. Alla luce di quelle scelte, oggi è tempo di fare bilanci, perché in sostanza stanno scadendo i 2 anni di permanenza vincolata agli strumenti scelti in quella fase. Non è detto che dobbiamo fare una scelta di cambiamento, naturalmente, però è magari un momento in cui si può dare un'occhiata un po' a quello che è successo e di fare un po' il punto sulle nostre scelte. Stamattina ci stiamo intrattenendo su questo tema, anche grazie ai vostri interventi, con Marco Lo Conte, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, e abbiamo promesso anche ai nostri ascoltatori di fare un test a sorpresa, magari Marco, a qualcuno, sì? Ed Enrico Clemente, Assicurazioni Generali Italia, responsabile area previdenza complementare. Allora cominciamo a sentire Dino da Bologna, che sta aspettando dall'inizio, il primo ad aver chiamato. Dino. Buongiorno. Buongiorno. Sono Dino da Bologna. Sì. La mia domanda è più che una richiesta di chiarimento riguardo alla possibilità di scegliere dopo i 2 anni, è una domanda in tema con la crisi. Sì. Cioè, c'è un figlio che è iscritto a un fondo chiuso da un paio d'anni, sì. Però con aziende in crisi, per cui sta iscrivendosi a partita IVA. Sta scegliendo, diciamo, insomma, la libera professione. Esatto. Sta diventando, sì. Volevo chiedere cosa succederà del fondo Cometa che attualmente, e se c'è qualche impossibilità di fare l'attività professionale mentre è ancora in cassa integrazione, diciamo. Questa era la domanda. Sì, sì. Ascoltandovi, secondo me mi è venuta anche un'idea di farvi un appunto, nel senso di sottolineare con più forza il valore del contributo dell'azienda, sì, che sì, certo. Ai fini del rendimento del fondo pesa non poco. Assolutamente, rispetto a un fondo aperto. Certo, Dino, assolutamente ragione, la ringrazio, lo abbiamo fatto spesso e volentieri quando abbiamo messo un po' sulla bilancia pro e contro dei vari strumenti di previdenza complementare che i lavoratori hanno l'opportunità di scegliere. È chiaro che, come dire, il contributo del datore di lavoro quando si sceglie il fondo chiuso è, come dire, il vantaggio, non il vantaggio, comunque forse l'aspetto più rilevante, Marco, da tenere in considerazione. Mediamente corrisponde, in caso di contributo volontario, che può essere anche molto basso, anche lo 0,1%, poi dipende da fondo a fondo, contratto a contratto, ma mediamente è intorno all'1-1,5% con punte che arrivano intorno anche al 4%, nel mondo del credito addirittura si supera anche il 5%. Tornando invece alla questione che ci ha sottoposto per prima, allora, il nostro ascoltatore, anni diversamente il fondo chiuso, a Cometa, il fondo dei metalmeccanici, il più grande e il più anziano d'Italia probabilmente. Uno dei più anziani. Uno dei numero uno, il più vecchio è Fonkim, quello dei chimici, poco dopo è nato Fondo Energia, del gruppo Eni e... Cioè non e ti posso mettere in difficoltà su niente, sei no, tutto. No, vabbè, ma tu non insistere, perché magari poi qualcosa lo trovo. No, allora, per la domanda del nostro ascoltatore, chi perde i requisiti di adesione ad un fondo pensione può riscattare tutto il montante accumulato fino a quel momento, ma prima di perdere i requisiti di adesione, vuol dire prima di perdere il contratto di lavoro da lavoratore metalmeccanico, diceva il nostro ascoltatore, è possibile che ci sia la cassa integrazione. Durante il periodo di cassa integrazione è possibile ottenere delle anticipazioni anche rilevanti sul montante, per cui come detto più volte, il fondo pensione funziona nei casi estremi come questi, come un ammortizzatore sociale. Esattamente, infatti. Questo il ruolo che offre, e lo offre in maniera ancora più evidente e quantitativamente maggiore per casi più numerosi rispetto all'utilizzo del TFR in azienda. Invece mi pare di capire però che questo ascoltatore non avesse forse questa esigenza, lui magari voleva capire se può trasferire tutta la sua posizione in un altro strumento di previdenza complementare, ammettendo che lui, aprendo una partita IVA, diventa un libero professionista, ammettendo che scelga, poi magari questa domanda la faccio anche a Clemente, una polizza dei generali, può trasferire tutta questa sua posizione dall'altra parte? Il montante pregresso sì, aprendo una nuova posizione, certo non avrebbe più un contributo datoriale, non avrebbe più il TFR, dovrebbe... Ma questo povero non dipende da lui in questa fase. Evidentemente sì, è chiaro che qui colgo l'occasione per sottolineare come se i lavoratori dipendenti che hanno meno di 40 anni andranno in pensione con meno della metà anche dell'ultimo stipendio, più grave ancora la situazione dei lavoratori autonomi o dei co.co.pro, per esempio, che hanno bassissimi versamenti previdenziali di primo pilastro e andranno in pensione con, si stima, una quantità, una percentuale rispetto all'ultimo stipendio pari al 20-25-30% al massimo, per cui per non passare una vecchiaia in grave stato di indigenza, perché questa è la situazione che andiamo a costruire oggi giorno per giorno, in questi momenti, per il nostro futuro, è necessario oggi fare qualcosa di quanto più adeguato possibile. Il tema è individuare la scelta, individuare appunto la soluzione giusta per noi, perché comunque è anche molto difficile proiettare in questo momento, anche se è vero, questo non è un momento semplice. È stato il grande anche, come dire, oggetto della discussione di 2 anni fa, no? Perché nessuno sembrava poter trovare l'interlocutore giusto che gli desse una proiezione della sua situazione futura. Oggi l'abbiamo, la Covid sta mettendo a punto e lo renderà obbligatorio l'anno prossimo il progetto esemplificativo che dirà le scelte di oggi come si proietteranno sul nostro futuro pensionistico. Molti motori di ricerca su internet e noi sul nostro sito del Sole 24 Ore già lo proponiamo, danno delle indicazioni sul tasso di copertura pensione con ultimo stipendio. Sono stime, sono abbastanza, insomma, credibili, anzi molto credibili. Ci dicono già adesso che andremo a prendere la metà, meno della metà, qualcosa più della metà. Insomma, di certo il rischio, anzi la possibilità di avere una vecchiaia indigente è molto alto. Questo allora, è un dato di fatto. Prima di sentire Enrico Clemente, Costantino d'Aosta. Buongiorno. Buongiorno Costantino, lei fa il promotore finanziario? Sì. E quindi le chiedono anche consulenze, immagino, i suoi clienti in tema previdenziale. Sì. Come se la cava? Volevo dare un contributo su questo, condividere con voi un paio di considerazioni. Sì. La prima sui rendimenti, perché ritengo che, come è stato giustamente detto, fare le classifiche a un anno, a distanza di un anno, è molto fuorviante, perché si rischia di comunicare un messaggio sbagliato, poi la gente chiaramente legge il titolo e vede fondi azionari giù del 30-40%. E non si rende conto che magari con un piano di accumulazionario a fini pensionististici in 30 anni si entra a 360 volte. Quando i suoi clienti le, tra virgolette, contestano questo aspetto, Costantino, le chiedono ragione di questi rendimenti che sono scesi così tanto in questo periodo? Ovviamente saranno anche consapevoli della crisi finanziaria che ha provocato questa discesa, però lei come se la cava con loro? Diciamo che a monte c'è stato un discorso molto chiaro, per cui si è detto: guarda che abbiamo davanti 20, 25, 30, in un caso anche 40 anni, e per cui noi, fra virgolette, facciamo il tifo perché questa cosa accada oggi, perché chiaramente io interesse a comprare i saldi, non ho interesse che dopo un anno il mio prodotto sia schizzato a più 50, perché più basse sono le quote più si compra, certo, ovviamente. E questa cosa è veramente riuscito banale, a fare però... un bel discorso di pianificazione finanziaria molto... Sì, se il discorso è chiaro a monte, il cliente e anche il promotore gestisce poi con calma, magari con interventi aggiuntivi nei momenti di maggiore crisi, queste crisi. Benissimo. Secondo aspetto che voleva toccare dopo il rendimento. Informazione, nel senso che sotto scadenza, a giugno di 2 anni fa, scadenza per la scelta del TFR, c'è stata tantissima informazione tutta insieme, per cui la mia percezione è che la gente si sia sentita tantissima assediata. Per modo di dire, in realtà poi quella istituzionale non c'è stata ed è stata molto superficiale quella poca che c'è stata, Costantino, almeno per quello che posso pensare io. Comunque, poi dopo non se ne è parlato più, lei dice... Non se ne è parlato più, di fatto la gente non si rende conto di questa cosa, cioè, obiettivamente io fra l'altro utilizzo il software di Plus sulla previdenza complementare e chiaramente scusate il termine, sbatto davanti la realtà ai clienti, che si rendono conto che effettivamente non possono pensare di avere una terza età dignitosa. E insomma, è un discorso. Io la ringrazio, Costantino. Devo salutarla perché ho suggerimenti per chi è in viaggio, però abbiamo capito il senso della sua riflessione. Il tema dell'informazione, sicuramente, fino a che avevamo la scadenza che come dire, era dietro l'angolo, e allora una grande battaglia anche di comunicazione abbiamo fatta anche noi. Probabilmente anche noi forse dovremmo ritornare un po' di più su questi argomenti. In realtà mi sembra di ritornarci davvero tanto spesso, anche con Marco, che tante volte qua, plus 24, poi non parliamo. Ecco, infatti c'è tutta la settimana, ogni settimana c'è una pagina su questo, ma anche sugli altri quotidiani più o meno specializzati. Il tema è che se non c'è una scadenza dietro l'angolo, allora siamo portati un po' a rinviare questa scelta, anche alla luce del fatto che in questo anno, lasciatemelo dire, le priorità sono, come dire, apparse altre, e questa è sembrata un po' una priorità di secondo piano, e non è così. I temi della previdenza complementare questa mattina a Salvadanaio, 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Enrico Clemente, Assicurazioni Generali Italia. Allora, un paio di questioni per lei che sono maturate dalle considerazioni che abbiamo sentito dai nostri ascoltatori. Cominciamo dall'ultima, da quella delle campagne informative. Sì, allora, intervento di Costantino D'Aosta. Sì. Beh, condivisibile su entrambi gli aspetti, nel senso che valutare la parte di rendimenti, valutare a 2 anni data, a 1 anno data, il risultato del proprio investimento previdenziale potrebbe portare a scelte di emotività non del tutto corrette. Quindi torno sul ragionamento iniziale: è importante fare una valutazione periodica, a prescindere dalla finestra che si è aperta adesso per la portabilità, per vedere come stanno i propri investimenti, ma non è opportuno segnalare di non prendere delle decisioni affrettate sulla base appunto di un risultato su un orizzonte così breve. L'orizzonte è molto più ampio. Quanto riguarda l'informazione, è un po' anche questo una questione che abbiamo affrontato prima, nella misura in cui naturalmente c'è ancora moltissima parte della popolazione che deve ancora scegliere. Quindi mantenere costante, e voi come Sole 24 Ore lo fate, ve ne va dato atto, mantenere costante l'informazione sulla previdenza aiuta le persone a rendersi conto progressivamente di quanto importante sia iniziare a fare la scelta, perché rimandare significa sostanzialmente trovarsi poi con troppo poco tempo per poter coprire il gap previdenziale che si sta creando. Per quanto riguarda invece Dino da Bologna, esattamente, perché lì tra l'altro stavo pensando io, noi stiamo prendendo in considerazione tutto quella platea di lavoratori che adesso si confrontano con, lo ribadisco, la famosa scadenza dei 2 anni di permanenza vincolata agli strumenti scelti nel 2007, ma in realtà c'è tutta una marea di persone che adesso sta cambiando lavoro, che lo ha perso e che magari si chiede che cosa fare della posizione maturata, no? Come dicevamo prima, e magari per voi si apre anche questa opportunità, che è quella di andare un po' a gestire adesso la possibile futura situazione previdenziale di chi sta radicalmente cambiando stile di vita e lavoro, soprattutto, Clemente. Sì, questo infatti è un meccanismo che la previdenza complementare ha previsto, cioè quello di poter dare a chi entra nelle forme di previdenza complementare, dare la possibilità di proseguire il proprio piano previdenziale anche indipendentemente da quello che succede alla propria attività di lavoro dipendente o di lavoratore autonomo. Nel caso specifico del figlio di Dino di Bologna, mi sembra di aver colto che al di là della difficoltà dell'azienda per cui lavora, sta valutando di diventare un lavoratore autonomo. Ecco, la previdenza naturalmente con i suoi strumenti consente al figlio di Dino di trasferire la propria posizione e con questo continuare il proprio piano. È importante, è vero, non avrà più naturalmente il contributo del datore di lavoro, diventa un lavoratore autonomo, però è importante segnalare quanto sia fondamentale la prosecuzione del piano anche ai fini dei benefici fiscali. Ricordiamo infatti che mantenere la posizione previdenziale e accumulare anzianità nell'ambito dei piani pensionistici consente di avere dei benefici in termini di tassazione nel momento in cui si vanno a prendere le prestazioni. Esistono gli strumenti per poter proseguire anche al di fuori di un fondo collettivo al quale non si ha più diritto perché si cambia attività, esistono gli strumenti per proseguire, sono gli strumenti individuali, quindi fondi aperti e PIP. Allora, chi sentiamo adesso? Ci sono tantissimi ascoltatori, avevo un paio di file da sentire, non ce la facciamo, li rimando, saranno sicuramente utili per un'altra circostanza. Fabio da Roma. Fabio? Eccomi. Eccomi. Eccoci qua, lo so che si era anche un po' allora, stancato. Io volevo fare una domanda ai vostri esperti. Sì. Un pochino provocatoria. Vabbè. Visto che i tecnici già sapevano nel 2007, quando hanno creato questi fondi per la pensione, che ci sarebbe stata una bolla speculativa, le Mambradas, eccetera. Mica tanto, guardi, lei sopravvaluta le doti. Le doti previsive. Il mio commercialista, uno qualunque, me lo nel 2007 conoscere. Mi diceva: Fabio, non compra nulla che è collegato a fondi, eccetera. Statene buono perché qui fra un anno o due esplode la fine del mondo. Il mio commercialista è uno scemetto qualunque, non un esperto, ma lui già subodorava. Allora mi chiedo, visto che già si sapeva nel 2007 che sarebbe successo qualcosa di grosso, perché non hanno scelto un altro strumento o almeno lasciato le cose come erano per aspettare tempi migliori? E poi, comunque, con i fondi, ammesso e non concesso che non si potesse prevedere questo disastro, ma che ci guadagnavano i lavoratori in più rispetto al vecchio sistema che è andato avanti per 40 anni? Guardi Fabio, adesso Marco le risponde. Io capisco anche la natura della sua provocazione, tutta la ovvietà anche di coloro che dicono si poteva prevedere, non si poteva prevedere. Nel 2007 eravamo già in piena crisi, cioè voglio dire i primi scricchioli pesantissimi sono arrivati in pieno agosto, me lo ricordo bene. Il tema è che non è che in quell'anno sono stati creati fondi pensione, c'erano già una marea di strumenti sul mercato, erano già partiti prima, quindi non è che uno ad arte in quell'anno ha creato degli strumenti di previdenza complementare per far cascare gli aderenti nella crisi. Marco. Allora, in ordine, può darsi anche qualcuno l'aveva previsto, oggi poi scopriamo tanta gente che l'aveva previsto. Ci sono stati comunque, processi agli economisti. Sì, e ma al di là di questo, allora, in tutto il mondo i fondi pensione vengono utilizzati per gestire la longevità, cioè il fatto che si va in pensione, si smette di lavorare e si sta per un certo periodo senza lavorare e bisogna campare, insomma, in vario modo. C'è la previdenza pubblica e la previdenza privata. I fondi pensione sono previdenza privata. Registro che la previdenza pubblica, cioè lo Stato a cui tutti ci aggrappiamo perché ci garantisce, è stato il peggior gestore nel 2009, nel 2008, lo sarà nel 2009, forse anche nel 2010, perché le pensioni pubbliche, quelle di primo pilastro, sono commisurate all'andamento del PIL, del prodotto interno lordo, essendo negativo. È vero, c'è una media mobile di 5 anni, però se infiliamo 3 anni di recessione, lo Stato darà indietro ai contribuenti meno denaro di quanto i contribuenti hanno dato a lui. Cioè, lo Stato è il peggior gestore. I fondi pensione sono nati negli anni 90 in Italia, il lancio del TFR è arrivato dopo tanto tempo perché si è pensato troppo, in Italia non si prendono decisioni affrettate, questo tutto si può dire dell'Italia tranne che si prendano decisioni affrettate. Se fosse partito prima probabilmente problemi in meno ce ne sarebbero avuti. L'ultimo punto, il TFR nel rendimento con i fondi pensione, non time weighted ma money weighted, cioè considerando i veri denari che la gente incassa nelle proprie posizioni, ha sempre perso la sfida con la media dei fondi pensione. Questo è quanto ci replica Marco Locontenò, perché ero un po' distratta perché stavo anche guardando purtroppo le telefonate a cui non riesco a dare ascolto questa mattina. Lisetta da Pordenone, in 10 secondi ce la riesce a fare la sua domanda, anche se la sua domanda richiederebbe 10 puntate dedicate. Lisetta. Sì, questo vogliamo aiutare anche proprio i giovani in un ambito proprio di un'educazione, perché fondamentalmente manca l'educazione su questo aspetto. Quindi in qualità di genitore mi preoccupo questo, a che età è suggeribile auspicare poter aprire una posizione, un fondo pensione per i figli? E poi volevo sviscerare un attimino gli aspetti fiscali a riguardo. Successivamente, sì. Quando loro saranno autonomi, quale far proseguire i versamenti quindi a loro? Come cambia l'aspetto fiscale? Io ho 20 secondi di tempo, non so come potrò. Allora, Marco, aiutami tu, poi mi scuso si fanno con molti Clemente. Regali. Sì. Ai bambini si fanno molti regali, però mettere qualche euro in un fondo pensione si può fare anche quando sono anche minori. Appena nati, sì. Fiscalmente infatti. Il beneficio è del genitore, cui l'aderente è a carico. Poi quando diventa grande e inizia a lavorare, il beneficio fiscale va in capo a lui quando inizierà a metterci i suoi Io soldi. Saluto Enrico Clemente, Generali Assicurazioni Generali. Dottor Clementi, non riesco a farla replicare perché il tempo ci è proprio sfuggito, ma le invito di nuovo sicuramente molto volentieri. Tra l'altro A presto. Grazie, buongiorno a voi. Grazie molte. Io tra l'altro volevo ricordare che abbiamo attivato anche il presidente della Covip per Salvadanaio. Lui vuole venire molto volentieri, per tutta una serie di impegni in questi giorni non è riuscito, ma magari subito dopo la sua relazione annuale prevista per giovedì prossimo, il 18 giugno, sarà sicuramente con noi e continuerà a rispondere a tutte le vostre, alle vostre domande su questo argomento. Io intanto ringrazio anche Marco Loconte, ricordo il suo blog Marco Oltre il TFR sul sito del Sole 24 Ore, potete trovare anche questo benedetto test che non siamo riusciti a fare neanche questo questa mattina. Pazienza, a presto, anzi per quello che mi riguarda a domani, buona giornata.